Radio 24. Libera la voglia di fare. Non siamo in diretta, immagino, no? Ah, siamo in diretta. Allora, intratteniamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'intervento, calcio di rigore, la sensazione netta del contatto, le proteste sono al minimo sindacale. No. Enorme Donnarumma, braccia aperte, parte Muriel, palla in rete questa volta, il gol di Muriel, Sampdoria in vantaggio. Io dico, ho visto una squadra che anche oggi ha fatto una grande partita, dove ha velocizzato sicuramente di più il gioco nel secondo tempo. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, se non che hanno fatto una grande partita portando avanti le varie situazioni di gioco. Stiamo creando tanto, anche oggi abbiamo creato tanto, è un periodo così, è difficile da spiegarlo. Bisogna andare avanti, avere la forza di andare avanti e avere una serenità adeguata per proseguire su questo cammino che secondo me è la strada giusta. Allora, l'unica notizia fin qui della domenica è che il Milan, è in realtà una conferma, è che il Milan è in crisi nera, 5 punti nelle ultime 7 giornate, sconfitta la terza consecutiva in casa con la Sampdoria, la quarta comprendendo anche la Coppa Italia. Poi ci sono altri numeri impietosi che fotografano il momento della squadra di Montella, che dice, continua a dire, che però il Milan gioca meglio oggi che nel girone d'andata, quando i punti arrivavano, magari anche con un po' di fortuna. Insomma, il dato è però che il Milan sta scivolando, anzi è già scivolato fuori dalla zona Europa, è stato agganciato dalla Fiorentina che deve giocare martedì a Roma contro la Roma, Milan che dovrà recuperare mercoledì a Bologna contro il Bologna, è stato distanziato dall'Atalanta, dalla Lazio, dall'Inter al netto di Juventus-Inter di questa sera. Insomma, l'unica notizia per il momento è questa, poi ieri sera abbiamo visto il Napoli 7 bellezze. Alle 20.45 vedremo Juventus-Inter e anzi da adesso vi invito a mandarmi le vostre considerazioni e vi do subito i numeri 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta oppure 349 238 6666, sms e whatsapp, ditemi tutto quello che pensate su Juve-Inter e non solo. Non è notizia nemmeno l'Italia del rugby, che ha perso 33-7 contro il Galles. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni. E Pierluigi Pardo, ciao Pier. Sì, ragazzi, ci sentiamo fra 3 minuti che sto imbarcando, però vi voglio bene, ho sentito tutto il preambolo e ho mille cose da dire anche su Milan, perché poi insomma il risultato fa sempre opinione e, sì, ed è giusto così, ma... da un certo punto di vista. Sì, però no? Non è che si può continuare a contare i tiri in porta. Non contare i tiri in porta, ma adesso metto il bagaglio sotto. Metti il bagaglio che poi fai le tue cose, che poi ci sentiamo. È il momento delle partite surreali, compresa quella dell'Italia del rugby che vinceva 7-0, poi ha preso un parziale di 33-7. Quella del Napoli si commenta da sola ieri sera, il 7-1 di Bologna. Oggi ne abbiamo visto un'altra surreale a Pescara, con la Lazio che ha vinto 6-2 dopo che era 2-2, ed è surreale anche la situazione del Milan, che ti dicevo prima, Giovanni, secondo me ha perso al di là del culo i due giocatori, uno domenica scorsa, Bonaventura, e l'altro Niang, che era stabilmente uno dei migliori, per altre ragioni ovviamente, uno dei migliori del Milan nella prima parte di campionato quando il Milan viaggiava. Sì, anche se la frenata era iniziata prima, perché i numeri li abbiamo detti in precedenza, 5 punti nelle ultime 7, quindi anche con Bonaventura in campo. Il problema credo sia soprattutto l'attacco, ma penso che il ragionamento vada un po' esteso. Il Milan è stato lasciato a gennaio, così come l'estate scorsa, alla deriva, sì, dalla sua attuale proprietà. Poi vedremo cosa succede il 3 marzo, però io credo non si possa fare una colpa a Montella di questa situazione. Non si può fare una colpa a Montella. Sappiamo anche, aggiungiamo anche il fatto che Montella normalmente con le sue squadre vive un periodo di gennaio nero, questi sono dati di cronaca, sono dati storici se vuoi. Gennaio è finito, è incominciato a febbraio, il Milan oggi non ha giocato una brutta gara, però il risultato, come diceva Pardo, fa opinione. È un Milan cui mancano tantissime cose, a cominciare da chi fa gol, perché Bacca è un giocatore molto particolare, la squadra deve giocare per lui, lo conosciamo, è inutile stare a ripetere certe cose. E Bacca è tra l'altro al centro di un caso per la sostituzione di questa caso, domenica. Urlava contro se stesso. C'è Simone Inzaghi, i microfoni di Mediaset Premium. Media, ma quello che più contava per noi oggi era tornare a vincere, ce l'abbiamo fatta, poi abbiamo avuto un 15 minuti che forse sul 2-0 pensavamo che la partita fosse vinta, però sappiamo che il Serena non deve mai abbassare la guardia, il Pescara è una buona squadra che ci ha fatto due gol, poi insomma siamo stati bravissimi nel secondo tempo a ripartire come eravamo partiti il primo tempo e a vincere una partita meritatamente. Queste sono partite che vanno preparate soprattutto mentalmente più che tatticamente. Dopo il 2-0 l'approccio è stato ottimo, cosa è successo e cosa soprattutto vi siete detti all'intervallo? Ma no, insomma ci siamo guardati negli occhi a fine primo tempo con i ragazzi, abbiamo detto che sul 2-0 abbiamo fatto quel quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo smesso di giocare e il Pescara meritatamente ci aveva pareggiato la partita e che saremmo dovuti entrare nel secondo tempo come eravamo entrati nel primo, con l'approccio giusto, che con testa, perché avremmo avuto tutto un secondo tempo a disposizione, siamo stati bravi, ci siamo rimessi a giocare a calcio come sappiamo e abbiamo meritato la vittoria. Questo Simone Inzaghi con la Lazio che torna al quarto posto aspettando il risultato di Juventus-Inter, 43 punti, Lazio che veniva da due sconfitte consecutive e Lazio che ha questa caratteristica, un po' come la Juventus, non pareggia quasi mai, non pareggia dalla 12ª giornata di questo campionato, insomma nelle ultime 11 partite ha vinto 7 volte e ha perso 4 e non è mai stata capace di impattare. La Lazio comunque si è tirata fuori da una mini crisi vincendo la partita di Coppa Italia con l'Inter, è un'eccellente squadra, ha eccellenti giocatori, merita tutti i punti che ha e è da collocarsi forse come prima della seconda fascia. Con prima fascia vogliamo togliere la Juventus o la togliamo stasera magari? Ma secondo me si può anche già togliere la Juventus. Si può anche già togliere la Juventus, seconda fascia, quelle che lottano per la Champions League e le conosciamo, quella che ha vinto 7-1 ieri sera, la Roma che giocherà martedì e l'Inter, a prescindere dal risultato di stasera. La prima della terza fascia è la Lazio e poi ci sono l'Atalanta e il Milan che sta per scivolare in quarta. Sì, Milan che forse è già in quarta fascia. Allora, in attesa di recuperare Pierluigi Pardo, aspettiamo anche le voci degli altri allenatori, c'è il traffico 800 24 00 24. E poi insomma parliamo del Milan, vi facciamo sentire anche Montella su Bacca, che oggi non ha gradito l'uscita. Non l'ha gradita nemmeno il pubblico di San Siro, nel senso che Bacca è uscito dopo circa 70 minuti per i fischi dei tifosi rossoneri. Si capisce che era rimasto in campo 70 minuti di troppo per chi oggi è andato a San Siro. Non c'è amore, no. Giovanni. 800 24 00 24, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. No, questo non so se abbia, ora la guardo, se abbia urlato, se abbia urlato contro lo staff, se abbia urlato contro se stesso. E io con questo non lo so, le scelte spettano a me e lui deve fare il suo dovere sempre come ha fatto fino ad oggi, sia in allenamento che in qui. Quindi è ovvio che un calciatore non voglia mai uscire dal campo, ma non mi sembra che abbia fatto niente di particolare. Si sente neanche, non si vede neanche il labiale, quindi c'è chi ha fatto peggio. C'è chi ha fatto peggio e c'è anche chi ha fatto meglio in campo rispetto ai 72 minuti di Bacca. C'è chi ha fatto meglio sia in campo che uscendo dal campo. Che su azione ha segnato un gol da settembre. Su azione, Pierluigi Pardo, ci sei? Sì, però insomma, parliamo di quello che abbiamo detto di Dybala una settimana fa. Insomma, io penso che esistano ovviamente oggi rispetto al passato molte più attenzioni mediatiche, quindi tutto venga raccontato con maggiore attenzione dalle telecamere e dai microfoni rispetto a quello che scriveva 20 anni fa o 30 anni fa. Poi è ovvio che i giocatori lo sanno, quindi ovviamente si regolano di conseguenza, ma è altrettanto vero che ci sono alcuni aspetti dell'animo umano che sono cioè io sono dei momenti della mia vita che non mi vorrei incazzare con l'incazzo, cioè non so come dirti. Sì, sì. Però secondo me tu devi sapere che non fai il bene della tua squadra, del tuo allenatore in questo momento. Assolutamente, però ci sono dei momenti che io razionalmente mi gira per dirti al lavoro, può succedere raramente, grazie a Dio, perché ho una squadra fantastica, però ci sono dei momenti che mi gira e penso sarebbe meglio mantenere massimo dell'autocontrollo per succedere anche a voi, no? Certo. E non lo fai. Come dicono quelli zen, don't react, act, cioè pensaci, stai tranquillo. Sì, però per Luigi, al di là dell'atteggiamento uscendo dal campo, rimane il dato che ha citato Giovanni prima, non segna un gol su azione da settembre. È chiaramente un gol su azione da settembre. Sì, ha fatto un gol su azione da settembre. Ha fatto il problema del Milan non è Bacca, su dai. No, il problema del Milan sono tanti altri, però il problema dell'attacco c'è. Poi vi do altri due numeri. Abbiamo rubato 3 minuti a Nando Orsi, che è in treno, che è reduce proprio da San Siro, da Milan-Sampdoria. Ora, volevo sapere da Nando Orsi se lui è della tesi Montella, cioè Milan gioca benissimo, insomma gioca bene. Ha giocato bene. Ho capito. E allora come si spiegano i risultati? Non conclude perché è una squadra che davanti alla porta ha problemi, perché non ha dei golatori veri. Bacca è un buon giocatore, ma Bacca gli deve dare la possibilità di fare gol, invece sono tutti quanti solisti. Poi Suso sta giocando, è un po' calato, De Rugeo ha giocato bene ma fa sempre la solita finta, non ha giocato male, cioè non meritava di perdere. Senti, Nando, non so se sei d'accordo anche tu, cioè quello che era un po' il trasformatore di energia del Milan e che è andato via per ragioni che non c'entrano nulla col calcio era Nianga a inizio stagione, cioè quello che ti salta l'uomo, che cambia marcia e che crea qualche occasione anche per Bacca. Secondo me è un'assenza importante che si sente, quella di Nianga. Sì, è un'assenza importante perché è l'unico che poi gioca con tutti e due i piedi. Bravo. Perché Suso è un mancino e va sempre dentro il campo. De Rufeu prende la palla e entra sempre dentro il campo, quindi non c'è nessuno che fa la doppia finta che può andare lì a testa. E quindi c'è un problema proprio di mettere palloni dentro per un giocatore come Bacca, che è uno che praticamente non aiuta la squadra, ma se c'è una palla dentro l'area, lui fa gol. Non è che non gli capitano più. La colpa non è sicuramente di Bacca, ma è di un modo di giocare del Milan che non è sicuramente consono e uguale a come era 2 o 3 mesi fa, e quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io vi do qualche altro numero. Il Milan ha fatto 4 gol nelle ultime 6 partite e il Milan è andato in svantaggio 8 volte nelle ultime 10 partite giocate. No, ma sicuro 8 volte in svantaggio nelle ultime 10. La vera anomalia, cioè, non è un Milan, era che il Milan stava lì, stava in alto. In questo momento il Milan ha un po' di sfiga addosso, ha proprio la nuvoletta di Fantozzi addosso, esattamente come a novembre o a dicembre, in tante partite che ha vinto con squadre anche magari di seconda fascia, faticando. Il Milan ha faticato col Pescara, il Milan ha faticato a Empoli, il Milan ha faticato col Crotone, cioè questa è la verità, no? Mi ricordo che lo dicevamo e io dicevo, però non è un caso che la squadra trovi sempre la soluzione. Esattamente come in quel momento trovava sempre la soluzione, adesso trova sempre delle circostanze che lo penalizzano forse al di sopra dei propri demeriti, quindi non c'è mai niente di casuale nel risultato, soprattutto gli allenatori e i calciatori non possono pensare questo, magari noi dall'esterno lo possiamo pensare, ma da fuori non lo si può pensare. Senti, voglio chiedere una cosa a Nando Orsi, che ha visto oggi il Milan allo stadio. Si è molto discusso anche del fatto che storicamente le squadre di Montella a gennaio hanno un calo fisico. Come sta il Milan fisicamente? Ma secondo me no, non è stato un calo fisico, è stato proprio una questione, cioè noi dobbiamo considerare che fine gennaio il Milan come rinforzo estivo aveva preso Locatelli, aveva soltanto, cioè la squadra dell'anno scorso che aveva Mihajlovic. Montella secondo me ha fatto un miracolo, secondo me Montella è il valore aggiunto. Il problema d'accordo. È che adesso vengono fuori dei problemi che strutturale di una squadra. Ricordiamo che manca Bonaventura, ricordiamo che, come hai detto tu, Niang è andato via, che è l'unico giocatore, però pure Niang era uno che andava un po' alternato, a corrente alternata, quindi ha preso questi 2 giocatori che come esterni vanno, ma poi dopo hai un problema lì dietro, che a campo largo per esempio Paletta e Zapata hanno dei problemi, lì in mezzo al campo Sosa come vertice basso, secondo me non può giocare. Kuzka e Romagnoli terzini, no, tra l'altro Andorsi sta toccando anche un altro tema, insomma io leggo oggi la formazione del Milan: Sosa, Pasalic e Deulofeu titolari, e gli ultimi due sono due prestiti secchi. Tutto il mercato d'estate e di parte di quello di gennaio, quindi La Padula, Gomez, Vangioni, Mati Fernandez e Campos seduti in panchina. Cioè, Montella è stato lasciato alla deriva e insieme Kuzka, a Milan. Kuzka terzino, Romagnoli terzino, sono cose che sinceramente non stanno né in cielo né in terra per un club come il Milan. Ora, doveva arrivare Cáceres... è molto esoso, vuole un sacco di soldi, voleva un sacco di soldi anche dalla Fiorentina, è un giocatore che è fermo ormai da molto tempo, però non, cioè, sinceramente non puoi proporre un Milan, capisco l'emergenza, ma un Milan così dal punto di vista di quelli che vanno in campo e dei ruoli che ricoprono, no ragazzi, su. Lo so, ma prima della partita Gagliani è stato proprio esplicito Gagliani deve prendere parametri zero a zero lire, e quindi... se questa è la situazione, il momento è questo. Deve Gagliani deve fare 10 da virtù. Parametri zero. Cáceres è un parametro zero, però vuole un milione di euro per giocare. Stiamo parlando di un giocatore fermo da un anno e che avrebbe dovuto giocare alcune delle 16 partite che mancano dalla fine. Cioè non avrebbe spostato nulla. Grazie Nando. Ciao Nando. Orsi, Pier, tu cosa ne pensi? Perché io vorrei anche aprire questo tema, voglio sapere anche cosa ne pensano da casa. Cioè, è giusto l'atteggiamento di Montella che dice comunque questo Milan gioca bene e diciamo non c'è un problema di gioco, e secondo me Montella invece sa benissimo qual è il problema, lo conosce alla perfezione. Sì, Montella sa benissimo qual è il problema, ma sa che il problema è un problema che c'era sempre. Cioè, il Milan, ragazzi, non è che quest'anno abbia fatto delle partite clamorosamente di superiorità su nessuna avversaria, cioè non c'è una partita del Milan di quest'anno contro una, adesso magari correggermi se mi sbaglio, contro squadre di livello alto nelle quali il Milan abbia dominato, mi sembra che ci sia. No Pier, però abbiamo detto molte volte che questo era l'anno della semina e che Montella è l'anno della semina, perfetto. Oggi, allora, pomeriggio brutto per giocano per i giovani perché... giovani vanno difesi ed è l'anno della semina. Esatto, oggi è il pomeriggio della semina nella quale però ha piovuto due giorni e per un attimo guardi i tuoi germogli e dici ma ce la faranno questi germogli, forse oggi non ce la faremo mai. Questo è il giorno, e questo è chiaramente dopo la sconfitta con la Samp, dopo Cáceres che ti dice no, questo è esattamente quel pomeriggio lì nel quale ti rode un po' e ti fa venire anche dei dubbi, ma è l'anno della semina, lo è senza alcun dubbio, perché il Milan quest'anno sta cominciando a costruire un'idea di gioco, un'idea di squadra. Certo, non è che con questa squadra qui fra tre anni vinci se non ci metti investimenti, è ovvio, no? Però questa squadra sta crescendo, sta costruendo, non c'è nessun dubbio, e non è il risultato di oggi. Non puoi giudicare la semina. Di che parliamo? Cioè che la semina vuol dire fra tre anni, Se tu esponi un campo pieno di germogli anche preziosi alla gelata, poi i germogli tu li bruci. Ma la gelata non è oggi, Donnarumma non lo discute. La seconda parte di stagione. Se i cinesi arrivano fra tre mesi e dicono vabbè, noi vogliamo fare un mercato che non esiste, allora quella è la gelata. Oggi è quella la gelata, bravo. Il Milan di quest'anno deve avere un solo obiettivo: andare in Europa League, perché l'Europa è una dimensione naturale di questo club, perché per troppi anni non si può stare in quarta fascia, l'Europa è lontana, l'Europa mi sembra ormai quasi irrimediabilmente lontana, però te la devi giocare con l'Atalanta, ragazzi, con l'Atalanta e con la Fiorentina, questo è l'obiettivo della stagione. Un attimo ragazzi, vediamo chi vince la Coppa Italia, perché altrimenti la linea si taglia al quinto posto, e il quinto posto in questo momento rischia poi di diventare troppo lontano. Vi chiedo 30 secondi di pazienza, intanto leggo qualche messaggio. Comunque chiunque vinca la Coppa Italia è una delle prime cinque, non credo ci siano grandi dubbi, no? O la Lazio, il Napoli o la Roma, bisogna arrivare sesti. Ed è una sfida secondo me fra Milan, Atalanta e Fiorentina, sono tre squadre per un posto. È chiaro che il Milan della prima parte della stagione ha autorizzato a pensieri diversi, però la differenza di gioco non è così clamorosa tra il Milan che vinceva stentando col Crotone o col Pescara e il Milan che perde oggi. Se no facciamo del risultato il nostro unico punto di riferimento, e quindi diciamo che il Napoli che ha pareggiato col Palermo è una squadra che faceva schifo, è che il Napoli che ha vinto ieri è una squadra meravigliosa. No, però sai, una partita è un episodio. Se una squadra per un mese e mezzo, quasi due, di partite non ne sfanga, ne ha vinta una. E tra l'altro all'88esimo credo in casa contro il Cagliari, poi sì. È l'unica vittoria dell'ultimo mese e mezzo del Milan. Io credo che qualche riflessione vada fatta. C'è chi ci ricorda che il Milan ha battuto la Juventus, sì, c'è, ma ormai ce lo siamo ricordiamo. Alla c'è chi scrive che forse qualcuno si è sentito arrivato dopo una serie di buoni risultati e apprezzamenti, ad esempio Locatelli. Credo. Locatelli lo confermi tutta la vita, devi giocare sui giovani, devi giocare, non puoi ammettere critiche su Roma, figuriamoci. È una crisi di crescita, sicuramente. Crisi di crescita, i giovani vanno in altalena, ma questo per definizione. Non è il Milan, ribadisco, non è che abbia dominato nella prima parte della stagione contro nessuno. Cioè il Milan ha vinto con la Juve, ha vinto con la Juve, con gli juventini che ancora protestano per i gol di Pjanic. Il Milan ha pareggiato il derby con l'Inter che ha pareggiato all'ultimo minuto, ma essenzialmente di rimessa. Cioè il Milan ha fatto questa roba qui, non è che era una squadra che nella prima parte della stagione vinceva le partite 5-0 in casa contro tutti, era una squadra che riusciva a trovare delle soluzioni, perché aveva un buon momento da parte di alcuni uomini che in questo momento non c'è. Quindi è questa roba qui, ma C'è un messaggio interessante. Stefano da Firenze che dice: non confondete calo fisico con mancanza di brillantezza. Il Milan corre molto ancora oggi, ma non è brillante. Come di questi tempi non era brillante la Fiorentina. Credo questo sia un riferimento diretto a Montella. Sì, ma questo l'abbiamo già detto. Abbiamo già detto che storicamente le squadre di Montella è una crisi strutturale. No, ma che storicamente le squadre di Montella a gennaio fanno fatica. Ora è iniziato marzo, non è finita la sfortuna del Milan. Io continuo a ripetere che comunque a questo Milan rispetto a quello dell'inizio mancano due giocatori determinanti. Uno è Bonaventura, che è quello che teneva insieme la squadra, e l'altro è Niang, che è un'assenza importante, un giocatore che Milan per motivi extracalcistici ha perso per strada e che ad inizio stagione era anche quello che permetteva a Bacca di rendere qualcosa in più. Quindi non possiamo dimenticare questo. Detto ciò, i giovani vanno fatti giocare, vanno difesi, perché questo è il futuro. C'è Diego dalla Spezia, 800 24 00 24. Diego. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Senta, allora io ce l'ho con Montella perché secondo me è lui il vero colpevole del problema del Milan. E lo dico perché sono 4 anni che vedo il Milan tutte le domeniche e nell'ultimo anno, allora facciamo una verifica di quello che c'è stato all'inizio del campionato. Il Milan ha perso con Montella, c'era in campo Montolivo, perché quello è il problema maggiore del Milan, è che non ha il centrocampo. Il Milan ha perso col Napoli, ha perso con l'Udinese, poi è andato a vincere, tra l'altro la prima partita l'abbiamo portata a casa perché al 95esimo Donnarumma ha fatto un miracolo con il Torino. Donnarumma è un giocatore del Milan, esatto, meno male, perché è un giocatore del, esatto, Milan per i milanisti. Esatto, poi ha fatto la partita, ci è andata bene a Genova, abbiamo vinto con quel famoso gol di Bacca che è entrato e l'ha messa dentro, e poi stavamo perdendo clamorosamente con il Sassuolo. Si è fatto male Montolivo, è entrato Locatelli e il centrocampo è cambiato, e infatti poi, a parte che ha segnato anche Locatelli, perfetto, poi abbiamo vinto lì e abbiamo incominciato a vincere. Poi quando lui ha incominciato a pensare di mettere Bertolacci al centro del campo, il Milan non copre, e si è visto, al di là dell'errore che ha fatto Locatelli nell'ultima partita contro l'Udinese, però lo ripropone al centrocampo perché è l'unico giocatore che comunque copre. Torna indietro e affianca i giocatori. Non credo giocatori, che Locatelli sia in discussione. No, però credo anche che Montella, Milan, insomma, fa quello ha ragione, che è. Ha ragione l'ascoltatore, mi imbarco, ma sto lì, sono 30 secondi. Cioè, quindi ha ragione l'ascoltatore nel senso che il male del Milan è stato Montella, che è stato fortunato, che si è fatto male Montolivo, e da lì in poi la stagione ha girato. Però il Milan è questo, è la squadra che ha senza Montolivo, che nel bene o nel male è comunque un giocatore importante. Ed è una squadra che non è che nella parte iniziale della stagione avesse fatto questi risultati. Si sottolineava giustamente le prodezze. Milan Sassuolo è una partita che gira in maniera clamorosa, anche con episodi arbitrali. L'hanno riconosciuto gli milanisti. Quindi il Milan, esattamente come non doveva farsi prendere dall'entusiasmo eccessivo prima, adesso non deve abbassarsi, perché è un percorso, l'obiettivo è tornare in Europa. È un obiettivo ancora possibile. 30 secondi di sbarco. Sì, intanto Pescara ha sbagliato 5 rigori su 7. Buonasera, in questa stagione. Buonasera, non sono perfettamente d'accordo. Buonasera. Con la mela marcia, comunque alias Pardo, esattamente, ma non Pardo, non lo sappiamo. Comunque non sono venuto qua per parlare di Pardo. Ieri, come sapete, sono stato a Milanello. No, non è stato, e guarda Milanello, caso, pioveva, guarda pioveva. Caso, oggi c'è stata l'auspicata svolta. Per esempio, io ieri a Milanello ho detto a Paletta: devi essere decisivo. E quest'oggi Paletta è stato però decisivo. Però il Milan ha perso oggi. Poi, ieri, anche Paletta ha fatto anche ieri, il rigore. Non mi interrompa, per favore, però Capuano. Le ieri cose aveva non mi interrompa. Non benissimo, ecco, Paletta, anche lei, gente, non no, ci si metta pure lei. Ieri ho detto a Bacca che devi farti sentire di più. E quest'oggi lui si è fatto sentire. Ma non nel senso che si è messo a strillare. Poi, devo dirvi anche che ho visto una squadra coesa, molto positiva e con un'ottima organizzazione di gioco. E posso rassicurare i tifosi. Eccoci, sento di nuovo la voce lì. Ieri, ama Silvio. La pregherei di mantenere. La pregherei di mantenere. Sì, ma se non lo bloccate, Cribbio. Ieri vi ho detto che ci saremmo rinforzati e oggi è arrivata la conferma di Caceres che è un giocatore tutta birra. No, ma che, e quindi, che dato non viene. Non ecco, viene Caceres. E quindi vuole gli sgay e lei non li tira fuori. Presidente, è andata male. Vuole, è andata male. Closing, vuole la moneda, closing, come dicono a Milano. E alle porte. Quindi siamo molto coesi e positivi. L'obiettivo minimo è il secondo posto. Però oggi il Milan ha perso, così è... ci fermiamo due minuti, pubblicità, torniamo subito. Cribio. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Tutti convocati. Icardi e Higuaín non sono i due centravanti più forti d'Italia, sono due dei centravanti più forti del mondo, insieme a altri tre massimo che ci sono in giro. Higuaín o Icardi? Icardi, Icardi. Parte Banega, sotto parte Icardi, rete! Il pari dell'Inter! Immediato, Icardi, sempre lui! Occhio di Higuaín che si gira subito in area su Barreca! Eccolo qui! Eccolo qui! Il fenomeno bianconero! Gonzalo Higuaín! Il derby d'Italia è sempre una partita importante. Si è visto all'andata che abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto e adesso dobbiamo fare la stessa cosa. A Inter, su storia, ha vinto tanti scudetti, quindi è una squadra da rispettare. Sicuro verranno a Torino a fare la sua partita, ma noi dobbiamo scendere con l'atteggiamento giusto. Giusto. A 9, risponde il 9, in un derby da favola! La giro anche a voi la domanda, è 800 24 00 24, Higuaín o Icardi questa sera e in generale. Saluto intanto Sebastian Frey, ciao Sebastian. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, tu chi ti prendi dei due? Beh, diciamo che sia uno che l'altro non vai a cascare male, perché penso che, come ho sentito adesso, sono in questo momento gli attaccanti più forti del nostro campionato. Ovviamente la mia parte nerazzurra mi dice che magari posso scegliere un po' più Icardi che Higuaín, però non vuol dire che è meno forte dell'altro, perché sono due campioni. Non so se Pardo ha già cominciato il volo. Credo di sì, credo di ha sì. Ha già cominciato il volo. No, io direi oggi Higuaín, dopodomani Icardi. Icardi è ancora molto giovane, è il dopo Higuaín, e poi vediamo se a quali vette arriva. Oggi Higuaín, dopodomani Icardi. Ma Icardi, secondo te, a che attaccante, che magari hai anche incrociato tu in Serie A, assomiglia? Teba. Un po' anche a Higuaín, un po' anche Higuaín. Beh, come hai detto te, io penso che Higuaín sia veramente il presente a livello nazionale e internazionale, veramente completo, forte, ha dimostrato a livello mondiale anche le sue qualità. Icardi a livello italiano sappiamo tutti che è uno degli attaccanti più forti, ovviamente se avrà la possibilità a livello internazionale di dimostrare quello che ha fatto in Italia, diventerà uno dei più grandi, senz'altro. Mm. Sì, c'è un'altra domanda che mi gira per la testa, posto che il confronto tra Higuaín e Icardi è difficile da sciogliere. Cioè, voi ad esempio quanti giocatori mettereste dell'Inter nell'undici titolare della Juve stasera? Io ci penso da stamattina, a me viene in mente Perisic. Beh, anche a me. Perisic. Poi non lo so se ne troverei un altro, a partire dal portiere, anche se sono tutti e due grandi portieri. Beh, io guardo, ho visto un po' le ultime partite, sono andato a vederle in casa dell'Inter e ho visto delle cose bene. Sono due giocatori che mi hanno veramente impressionato, che conoscevo poco, questo Perisic e devo dire anche questo Brozovic, ha avuto una crescita quest'anno incredibile. Anche Candreva, Seba, anche Candreva, sì, è un giocatore che Candreva è una garanzia. No, lo so, certamente è una garanzia, però è uno che anche messo nella Juventus farebbe il suo, insomma. Assolutamente sì, sono d'accordo. Candreva è un giocatore, tra l'altro, che a me piace tantissimo. Ma ha ragione secondo te Allegri, che ieri ha detto l'Inter ha già un organico da scudetto, poi fortunatamente per tutti gli altri e sfortunatamente per l'Inter ha buttato via i primi tre mesi di stagione, quindi parte ad handicap e non se ne parla. Non ha un organico, però è da già scudetto, una squadra da scudetto. Non ce li hanno neanche il Napoli, non ce li hanno neanche il Napoli e la Roma, un organico da scudetto. L'organico da scudetto ce l'ha la Juventus, punto e stop. Seba. Sì, devo dire che la Juve comunque in questo momento si conferma la squadra più forte, perché comunque da anni sono preparati a vincere, vincono lo scudetto. Come hai detto, l'Inter è partito questo handicap purtroppo e ha avuto la testa giusta da scegliere un allenatore, penso, italiano, che conosce il campione italiano, e questo ha potuto aiutare questi grandi campioni dell'Inter e metterli in campo nel modo migliore. Infatti da quando è arrivato Pioli penso che i risultati si sono visti subito. Non aveva tutti i torti Mancini quando diceva si rischia di buttare via tutto perché la base c'è ed è già ottima. Sì, lui non ce l'ha fatta vedere però. In ogni caso, ragazzi, chiedo ad entrambi, Giovanni Capuano e ovviamente Sebastian Fre, oggi è la prova del 9 per questo modulo della Juventus, che secondo me inventato per capriccio di Allegri, per sberleffo di Allegri nei confronti dei contestatori, piano piano lo ha convinto. Però oggi su quelle fasce Mandzukic il soldato e Cuadrado il corridore si trovano di fronte Perisic e Candreva, cioè due giocatori che giocheranno che giocheranno da quelle così parti lì, insomma, è pericoloso, Assolutamente, penso che in tutte le parti del campo ci sarà comunque un confronto diretto tra un giocatore e l'altro, però come hai detto sulle fasce oggi penso che sarà veramente un confronto molto molto importante, perché bisogna vedere chi avrà più coraggio di spingere rispetto all'altro, considerando che di fronte ci sono giocatori comunque di grande qualità. Io penso che sarà una partita straordinaria stasera, perché per me questa partita è la partita del campionato, o che riapre tutto o che la Juve si conferma veramente la più forte del campionato. Sì. Anche se è straordinariamente, fra virgolette, passatemi il termine, inutile, cioè io credo che comunque finisca stasera la Juve vincerà il campionato, e comunque finisca stasera l'Inter si è guadagnata la possibilità di lottare l'Inter per la Champions fino alla fine. Per la Champions, è vero, però, però una partita come quella di stasera è quella che ti può dare, che può dare all'Inter un qualcosa di emotivo. Al di là dei punti, è quella che può dare all'Inter una autoconvinzione, un'autostima che può fare la differenza, ed è per quello che, nonostante Giovanni non sia d'accordo con me, Pioli ha fatto turnover in Coppa Italia, perché Icardi non lo tiene fuori. Io non credo. Medel, che stasera gioca, l'hai tenuto fuori. Gagliardini, l'hai tenuto fuori. Ha pensato a questa partita, ma non tanto per risultato, quanto perché è una partita straordinariamente importante sul piano emotivo. Sono pienamente d'accordo. Tra l'altro la partita di Coppa Italia sono andato a vederla. Infatti questi giocatori, tra virgolette, leader e chiavi dell'Inter sono stati messi a riposo, perché ovviamente ho indossato la maglia dell'Inter, so quanto è importante questa partita, questo derby d'Italia tra Juventus e Inter, e ovviamente, come hai detto, è una partita che può dare morale, anche se inconsapevolmente sappiamo che la Juve è la più forte di questo campionato, però un risultato dell'Inter stasera dà morale all'Inter e riapre un po' tutto dietro, come hai visto ieri. C'è il Napoli, che comunque il Napoli non molla niente, ci sono delle, la Roma si vedrà, però ci sono delle squadre dietro che continuano a spingere, e penso anche allo spettacolo. Il campionato un po' riaperto sarà un campionato molto più bello. Vai a fare paura a Napoli e alla Roma se fa risultato. Sì, sì, per carità, vai a fare paura a Napoli e alla Roma se fa risultato. Abbiamo il traffico. Io però prima devo salutare Sebastian Frey. Approfitto di 30 secondi per girargli un messaggio di un amico che scrive chiedendo, siccome Frey è stato un grande portiere, a proposito di Donnarumma e di qualche errore di troppo nelle ultime settimane, se lo considera un momento di riflessione, di crescita fisiologica, e come si esce da giovani portieri, e Frey è stato un grande giovane portiere anche da questi momenti. Guarda, io allora su Donnarumma ho la mia idea. Io penso che Donnarumma veramente ha il potenziale per diventare il futuro portiere della nazionale italiana, un portiere di classe mondiale. Il problema è che adesso ha 17 anni e ne stiamo parlando troppo. Posso capire che nella sua testa non sia facile gestire comunque. Certo. Adesso tutte le voci che sono su di lui si parlano di milioni e di milioni, un ragazzo che comunque è un talento, ma deve dimostrare ancora tutto quello che ha nel campionato. Seba, però lui ha grande personalità e ha sempre dimostrato questa grande personalità. Mi sembra un ragazzo equilibrato. Glielo vogliamo concedere qualche errore a 17 anni? Ma assolutamente allora. Sì, ma gli errori ci stanno, ma io non credo che si sia fatto un caso, una polemica su Donnarumma. Donnarumma in questo momento è una delle poche garanzie del Milan. Bravissimo. Cioè, è l'investimento più importante che stia facendo il Milan. Cioè, io non sto dicendo che adesso il poco che ha fatto va buttato via, anzi, penso che gli errori gli darà voglia di rimettersi in discussione, perché come hai detto, io dal di fuori lo vedo e lo ritengo un ragazzo equilibrato, e ne verrà fuori ancora più forte di prima. Sì, certo. Deve capirlo anche chi gli sta intorno, a proposito delle pressioni. Grazie Seba. Ciao Sebastian. Grazie a voi. Ciao. Grazie Sebastian Frey. Abbiamo il traffico. Bellissimo. Torniamo subito. Tutti convocati. Benvenuto, questo è mi casa. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Occhio a Mertens, tutto solo, Mertens! Tripletta anche per Dries Mertens. Stasera, bomber assoluto del campionato. 16 gol in Serie A, 7-1 Napoli. Il tridente magico sta funzionando, da noi a tutti, perché sono veramente giocatori fortissimi uno contro uno di movimento e fanno veramente male alle difese. Speriamo che continuino così. La squadra è stata brava, trasformato la rabbia che aveva accumulato nell'ultima partita in determinazione, ha fatto un grande ingresso in partita, ha gestito bene i pochi secondi di Fiolta, e hanno fatto bene. L'unica differenza con la partita scorsa è che stasera la cattiveria sotto porta sembra diversa. Intanto abbiamo ancora tutti negli occhi il Napoli di ieri sera. Saluto Enrico Fedele. Buonasera a voi. Buonasera, grande Napoli, così si gioca solo in paradiso. Io lo so che poi Genta mi fa la faccia di quello che dice, vabbè, contro un Bologna così. Sono partite surreali. No, non sono partite surreali. Sono partite surreali. Enrico. Questo. Ma guarda, sono partite bellissime, ma sono partite che difficilmente tu vedi. Io ho più di 40 anni oramai, che cose in più. Io non ho mai visto una squadra che in tre partite fa circa 20 gol, no? A memoria mia, poi non so se voi avete altri riscontri. Cioè 5-1, 6-1, 6-2, cioè il Napoli ha delle performance sbalorditive, però se voi ci fate caso gioca col possesso palla, ma le azioni migliori le fa in contropiede. E allora qual è la formula migliore? Il tic tac che voleva Benitez, o cioè quello che vorrebbe pure Sarri, o questa formula magica di tre attaccanti con un 9 meno, sì, che poi lo chiamano falso, che, però quello che, fai quello che, la Paolo. Io non tocco niente, ma tu togli Martens, ma quello fai gulla alla Paolo Rossi, ma tu togli Martens, ma quindi non esce, no, più, è vero, la squadra è quella. Ma no, ma chi la cambia? Ma come si può cambiare? Però perdonami, io parlo di partite surreali, perché sì. Allora parto dall'Udinese, il Torino, sul Torino se vuoi poi apriamo un altro discorso, perché secondo me prego. No, il Toro secondo me è una squadra forte che può ancora avere pensieri di Europa. Udinese, Chievo che oggi hanno pareggiato 0-0, una partita inutilissima. Bologna, Cagliari, Sampdoria, Genoa, Sassuolo ed Empoli sono squadre che non hanno niente da dire. E quindi da qui alla fine della stagione. E il campionato è finito. Cioè, però devi farne 7 lì, eh? Cioè, devi farli 7. Devi farli 7 con una squadra che non ha motivazione, la può aprire in due. Il Napoli è arrabbiato, la può aprire in due. Posso dire, sai il difetto del Napoli qual è? Che l'anno scorso è venuto fuori in una maniera eclatante. Il Napoli non riesce ad esprimere il suo gioco con le squadre forti. Il Napoli perde con la Juve, il Napoli perde con la Roma, il Napoli ha pareggiato con la Lazio. Ma non perde sul piano del gioco, sia ben chiaro, perde sul piano della personalità in campo. Il Napoli purtroppo ha grande personalità con le medie, perde la personalità con le grandi. Ecco il difetto del Napoli. Non è un difetto da poco, visto che dietro l'angolo c'è il Real Madrid. Ma guarda, il Real Madrid, permettimi di essere un poco esperto sul Real per i passati che ben sapete. Io per 3 anni, essendo la gente di Fabio, stavo là un giorno, una settimana sì e una settimana chiaro. Il Real Madrid non è quello dei Van Nistelrooy, non è il dei Raul. E oggi in difesa c'era Pepe, c'era Fabio. In mezzo al campo ci stava Emerson, in avanti ci stava Guti che era un fantasista. Oggi il Real Madrid, tolto Ramos in difesa e un po' Marcello se sta bene, punta tutto su Cristiano Ronaldo. Basta dire chi è il migliore in campo delle mezziale oggi quando non c'è sta Modric, un giocatore che è stato bocciato dall'Inter. Sì. Che però non gioca sempre. Però quando gioca, voglio dirti, alla casacca, alla camisetta del Real Madrid, ma dentro sono 3 o 4 giocatori. Allora il Napoli, che sul piano del gioco se la può giocare con tutti, deve perdere questo difetto, certo, quello di sentire la pressione. Poi su Kovacic bocciato dall'Inter, insomma, parliamo anche di soldi, che l'Inter ne ha preso una valanga per un giocatore fino a quel momento inespresso e che è inespresso ancora adesso. Però per dirti, il calcio è diverso. Il Real Madrid è una squadra, guarda che te dico, ti faccio un anticipo, a mio modesto punto di vista, non è difficile di sbagliare. La linea è una squadra che lascia giocare, e se lasciano giocare il Napoli, se non si fa prendere da questa pressione, da questa paura del Bernabeu, no? Ma che incute timore, guarda, solo chi non c'è stato non lo sa. Io dopo tanti anni fa paura. Ti fa un certo senso San Siro, Torino, la stessa Roma, Wembley, Bernabeu, ti danno quell'idea, dice mamma mia, dove sto nel tempio, fammi guardare in un certo modo. Dopo ti deve passare, perché se non ti passa sei un mezzo giocatore, o sei un giocatore che puoi giocare solo alcune partite, ma non quelle che contano. Io penso che il Napoli ci andrà senza paura, Enrico, ma del resto insomma manca poco, mancano una decina di giorni, abbiamo la risposta a tutto, abbiamo anche il GR. Io ringrazio Enrico Fedeli. Ciao, grazie Enrico. Ciao, grazie. Comunque il Napoli è qualcosa di meraviglioso. 800 24 00 24, GR, torniamo subito e stiamo fino alle 19. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta, dai, mezza sigaretta. Sì. Sono Enrico Ruggeri. Tutti mercoledì voleremo sulle ali di carta, raccontando i grandi personaggi della letteratura. E partiamo con una grande donna, Penelope, la regina che ha aspettato per 20 anni il re Ulisse. Alle 15.30 vi aspetto su Radio 24. Ecco, lui si stava aspettando. Preciso, arriva, tac! Tutti convocati. Leggendo l'articolo, rapportandolo un po' ai titoli, come spesso succede, c'è qualche incongruenza. Noi non facciamo una dieta vegana perché facciamo mangiare tacchino, come c'è scritto talvolta. I calciatori, quando sono qui a Milanello, quando stiamo insieme, tutto quello che si fa qui fa parte dell'allenamento. Siccome anch'io devo essere da esempio, anch'io mangio in questo modo quando sono qua, poi a casa posso mangiare la bistecca, i calciatori possono mangiare la bistecca, possono mangiare quello che vogliono, anzi devono mangiare quello che vogliono, ma quando sono qua sono di mia responsabilità e si fa quello che è più giusto rispetto al nostro livello di professionalità. A parte che non è vero che è vegana, perché non è vero, voglio dire, assolutamente. Te l'ha spiegato anche lui. Casomai vegetariana, ma non vegana, assolutamente sì. Ieri c'era questa dietologa bravissima, mi ha messo un attimo in riga, in un giorno ho perso mezzo chilo, quindi sono molto contento. Bizzarro, perché ripeto, non è che l'abbiamo cambiata nelle ultime 4-5 partite la dieta. Era la stessa che usavamo fino a Doha, quando eravamo belli, biondi e con gli occhi azzurri. Invece, sottinteso, dicono che Gliani Montella, adesso che andiamo avanti con questa dieta e non vinciamo più una partita o quasi, sì, oggi ti va di pigliare il polemizzare, Milan, polemizzare su questo. No, è uno dei temi degli ultimi 3 giorni, da quando Repubblica ha scritto che nello spogliatoio del Milan a Milanello c'è un po' di contrarietà per il regime alimentare imposto da Montella. Una sera, l'avete sentito ieri, sera ha dovuto ancora specificare. Sì. Chiedo scusa, da oggi cosciotti di maiale per tutti. Ma no, ha detto, ha sentito che gli cosciotti hanno cosciotti di maiale per tutti. Anche quando a Doha, Milan mangiava così e vinceva. No, però insomma è particolare. Credo sia un discorso da approfondire, quello dei regimi dietetici. È un discorso anche serio, Giovanni. È un discorso serissimo. C'è Conte che è un maniaco. Bravo, ad esempio. Bravo. Conte è un maniaco della dieta. Conte è un maniaco dell'alimentazione, che cura su tutti gli aspetti. Ancora mi ricordo quando andò nella sua esperienza, quando cominciò la sua esperienza breve e sfortunata con l'Atalanta, che immediatamente tolse patate e parmigiano dalla dieta. Sono due alimenti che normalmente gli sportivi consumano. È uno che è molto attento a questi aspetti. Detto questo, gli atleti consumano diverse calorie, quindi non credo che l'insalatina possa essere la migliore dell'alimentazione, ma non sono un dietologo. Poi, bravo. Grazie. Poi c'è stata la famosa dieta zona di Gattuso, e poi c'è stato Inzaghi, che per anni è andato avanti a mangiare riso in bianco e bresaola. È un aspetto curioso, importante. Certo che dieta vegana mi sembrava veramente troppo, quando l'ho letto sul giornale l'altro giorno, un po' estremo. A te mi è venuto da ridere. Un po' come regime dietetico. Si potrebbe puntare sugli insetti, perché gli insetti, c'è assolutamente nulla da ridere. Le formiche fritte, le cavallette, per esempio, sono molto coese, positive e proteiche. Mi scusi, Presidente, ma lo dice lei che quando era bambino aveva il campanellino legato per non schiacciare le formiche? Diciamo che le cose sono cambiate. Io vedo un paletta bianco tutto allora mangia diciamo formiche d'allevamento, formiche d'allevamento. Diciamo così. Allora vi devo dare qualche aggiornamento. Intanto il Manchester City ha battuto lo Swansea 2-1, ma poi ci chiedeva un amico notizie sul Leicester di Ranieri, che è sotto 3-0 in casa contro il Manchester United. Siamo al 10° minuto del secondo tempo. Mitikarian, Ibrahimovic e Mata, tutto dal 42esimo del primo tempo da vincere, però quest'anno però non la vedo facile. Vediamo anche cosa succede. E altro aggiornamento invece che riguarda il tennis, perché è in corso la terza e decisiva giornata della sfida tra Italia e Argentina. Mar del Plata 4-4 nel primo set tra Berloc e Lorenzi, ma gara che in questo momento è sospesa. E poi vi faccio sentire un'altra chicca di questa domenica. Oggi Spalletti che fa irruzione a Sky Sport, dove allora, Mangiante sta dando le ultime, o comunque insomma sta raccontando come Spalletti vuole impostare la squadra in vista della partita martedì sera contro la Fiorentina. Quindi è lì Mangiante, Angelo Mangiante, che sta facendo il suo collegamento tranquillo. Succede questo. Due brasiliani, Emerson e Bruno Perez. Sarà con un modulo a 3 in difesa, un centrocampo a 4 con la spinta sulle ali dei due brasiliani, Emerson e Bruno Perez. Angelo, e poi ce l'ho io l'argomento. Eccoci qua, vediamo. Ce l'ho io l'argomento oggi. Eccoci. A Roma va fatto lo stadio. Famo sto stadio. E non solo a Roma. Lo stadio, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia. È l'argomento d'oggi. È l'argomento di oggi. Va bene. Famo lo stadio. Bellissimo. L'irruzione di Spalletti che si piazza. E poi se n'è andato. Poi se n'è andato. Sì, poi è andato via. No, ma ho l'impressione che invece la Juventus Spalletti abbia altre idee che non necessariamente coincidono con il calcio. Cosa dici? Non lo so. Io ho l'impressione che Spalletti non vedrà l'inaugurazione dello stadio della Roma da allenatore della Roma. Poi ne parlavamo anche venerdì sulla questione dello stadio della Roma. Io credo che i primi a dover sperare che gli altri club possano avere uno stadio di proprietà in tempi accettabili debbano essere proprio i tifosi della Juventus, per cercare di far crescere tutto il sistema e far crescere anche la Juve, altrimenti insomma così si va avanti un mese. Abbiamo un mese per capire come va a finire questa vicenda. 800 24 00 24, ce l'ho. Un'idea ce l'ho, sentendo anche le parole che arrivano dai politici, non solo della capitale, ma comunque della parte del sindaco della capitale. Mi sembra molto difficile. Vediamo. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Domani abbiamo una partita veramente bella da giocare. Due squadre che hanno gli organici per puntare a vincere il campionato. Noi siamo in testa, loro sono in ritardo. Fortunatamente per noi loro sono partiti male. Le ultime 10 partite su 30 punti a disposizione, l'Inter ha fatto 25 punti, quindi dimostra tutto il suo potenziale. L'Inter si gioca una partita che vale 3 punti, come tutte le altre, però sappiamo che questa partita può valere anche di più per la sfida che è, per quanto è sentita, per quanto non è a caso che si chiama il Derby d'Italia, quindi è una partita che vale tanto e per la quale ci siamo preparati bene. Io ho sempre detto che dall'inizio del campionato l'Inter aveva un potenziale di primo ordine che poteva lottare lo scudetto. In questo momento lotta per i primi 3 posti. L'Inter al massimo, da punti che ora può arrivare a 90 punti, vincendole da qui alla fine tutte. È una società forte, è una società sempre presente. L'anno prossimo sarà la prima o la seconda candidata a vincere lo scudetto. La Juventus è una squadra forte, lo dicono i numeri, lo dicono i risultati, lo dice la mentalità che hanno, i giocatori, l'allenatore, quindi è sicuramente la squadra più forte d'Italia, ma credo che se ci sono delle squadre che possono mettere in difficoltà, una possiamo esserne sicuramente noi, quindi loro hanno le loro qualità e le metteranno sicuramente in campo e faremo altrettanto cercando di provare a far meglio di loro. Vi devo anche l'aggiornamento di Palermo-Crotone, 15 minuti 0-0. Anticipo della prossima stagione di Serie B in questo weekend di partite surreali. Possibile anticipo della prossima stagione di Serie B. Saluto Alberto Zaccheroni, grazie mister, buonasera. Ciao mister. È un piacere, grazie a voi. È un piacere anche per noi. Dunque, io dico la mia, ho l'impressione che intorno a Juventus-Inter di questa sera, che resta una grande partita, ci sia soprattutto la suggestione per quello che potrà essere da, soprattutto l'anno prossimo. Cioè, oggi in realtà sia ancora una partita che per la classifica vale quello che vale. Ve l'ho detto prima come la penso: se la Juve perde vincerà comunque lo scudetto, l'Inter lotterà per il terzo posto, comunque esce questa sera da Torino. Io non so che giudizio ha Alberto Zaccheroni a 2 ore e mezza dall'inizio di Juve-Inter. Io posso aggiungere la mia, così da una risposta cumulativa. La penso come te dal punto di vista del risultato, cioè un risultato che paradossalmente conta il giusto, conta poco in fondo, perché l'Inter è comunque, rimarrà comunque in corsa per la Champions League. Invece è una partita, come ho detto prima, Sebastian Frey, estremamente importante dal punto di vista emotivo per l'Inter, che se dovesse uscire imbattuta, diciamo così, da quella terra che è impossibile da conquistare, che è lo Stadium, potrebbe guadagnare un'autostima che sarebbe importante nella corsa verso la Champions League e magari mettere anche un po' di pressione, di paura alla Roma e a Napoli. Mister, concordo con voi due. Per la classifica incide poco, indipendentemente dal risultato, perché io ho sempre ritenuto la Juventus decisamente superiore a tutte. Fin dall'inizio ho detto che l'unica che può perdere questo campionato è la Juventus. Non sono gli altri che lo vincono, ma la Juventus che lo può perdere, perché ha due squadre che probabilmente arriverebbero forse una prima e una seconda. Lo ha dimostrato negli ultimi campionati. Il Napoli gioca meglio delle seguitrici, è quella che gioca meglio. La Roma secondo me non è all'altezza come organico per poter competere nell'arco di tutto il campionato con la Juventus. L'Inter gli manca, a mio avviso, qualche ruolo ancora scoperto. Ad esempio sui terzini può migliorare, e centralmente in difesa può migliorare, ma quest'anno sono d'accordo, quest'anno no, ma quest'anno l'Inter, poi essendo stato in Cina non tanti mesi, ma sufficientemente per conoscere Suning, questi sono un grande colosso. Sei convinto sulla volontà che hanno? Oggi Tutto Sport scrive 400 milioni per il mercato da affidare ad Antonio Conte, tra l'altro, che sarebbe stato contattato per un contratto quadriennale da 60 milioni di euro. Io riporto le notizie di oggi, sparate da Tutto Sport in prima pagina. Adesso, al di là di quello che è il futuro, però Allegri ieri ha detto che già questo organico oggi dell'Inter sarebbe da squadra che può lottare per lo scudetto. No, questo non può lottare per lo scudetto. Allegri ha detto quello che verrà l'anno prossimo. No, ha detto quello, ha detto che, questa Inter è già costruita per lottare per lo scudetto, è adesso, penalizzata dalla partenza dalle prime adesso, 10 giornate. Non è vero, mister. Io dico che la Juventus è completa, l'Inter gli mancano quei tre ruoli che ho detto per essere come la Juventus, e la Juventus è coperta anche con le alternative in diversi ruoli, l'Inter un pochino meno. Quindi l'Inter dovrà sicuramente cercare di ridurre quel gap, ma non sarà facile neanche in un anno, onestamente. Intanto le ultime da Torino dicono che potrebbe esserci una difesa con Medele Miranda, sì, fuori Muriglio. Non dovrebbe esserci la difesa 3 di cui oggi ad esempio parlava la Gazzetta dello Sport. Cosa deve fare Pioli per cercare di reggere l'urto della Juve? Perché è anche particolare e pericoloso forse snaturarsi in un periodo in cui ti va tutto bene. In queste partite non è bene snaturarsi solitamente, poi le regole e le certezze nel calcio non ci sono, i giocatori vogliono certezze, noi abbiamo delle convinzioni, noi allenatori, però cerchiamo di dargliele come certezze perché loro vogliono queste. Loro sono consapevoli di stare bene, la serie di lunghe di risultati positivi e anche accompagnati dalle prestazioni li sta gratificando molto, e secondo me potrebbe sembrare quasi un segnale di debolezza, un po' da provinciale, andare ad affrontare la prima della classe e andare a cercare degli adattamenti, perché ti preoccupi di Dybala o ti preoccupi di Pjanic o di Mandzukic. Quindi secondo me La provinciale lo fa, lo deve fare, sì, di adattarsi, ma la grande squadra, quella mentalità che Pioli sta cercando di far crescere, di atteggiamento. Vai con i giocatori che ti hanno portato lì. Vai con i giocatori che ti hanno portato lì, giusto? Io penso che lui, leggevo che probabilmente rimarrà fuori Gio Mario. Io non credo. Sì, c'è questo ballottaggio tra Gio Mario e Brozovic. Del resto anche rinunciare a Brozovic non è facile. Parlavamo prima della grande crescita di questo giocatore. Io sono curioso di sapere. Volevo dire, io l'altra sera ero a San Siro a commentare per la Rai la partita di Coppa e l'Inter ha cambiato qualcosa. Rispetto alle partite precedenti, la partita vi ho visto com'è andata. Certo, ha cambiato parecchio, infatti io sono convinto, a differenza del mio compagno di banco Giovanni Capuano, che abbia fatto turnover, perché il solo togliere Icardi è un messaggio che dai alla squadra. Però io sono curioso di capire anche dall'altra parte se, come e quanto reggerà questo modulo inventato quasi per scherzo, come direbbe Mughini, forse da Allegri, perché Mandzukic e Cuadrado si troveranno di fronte Perisic e Candreva, che non sono esattamente due che la raccontano leggera. Io credo, per quanto riguarda la Juve, cioè l'Inter, stai parlando dell'Inter o della Juve. No, la Juve io credo che sia stata genialata una mossa intelligente, se non lo vogliamo chiamare genialata, di Allegri, quella di modificare nel momento in cui i risultati arrivavano, cambiare, provare questa diversità, questo sistema di gioco, no? Perché la squadra, questo era il mio parere, io lo stavo seguendo con attenzione, e man mano, senza cambiare atteggiamento, pian piano, che man mano che andava avanti, consapevole che quei tre davanti potevano sempre trovare il gol, si accontentava di star lì ed aspettare, e quindi stava perdendo quel patrimonio di gioco costruito, quella cultura, quell'atteggiamento costruito con tanta fatica negli anni, no? E quindi è stata la mossa intelligente, è stata quella di andare a cambiare senza attendere la sconfitta importante in campionato. È vero che è arrivata a Firenze. No, ma anche a Firenze, no, perché poi la svolta Firenze arriva dopo, sì, Firenze. Sì, però lui ha fatto bene a dare una scossa alla squadra, e la squadra l'ha recepita, fortunatamente l'ha recepita, perché poteva anche recepirla male, invece fortunatamente l'ha recepita bene. Però adesso si devono, con quel sistema lì, che non c'è il sistema che ti fa vincere sempre, non esiste. Ecco, quel sistema lì in questo momento va bene se tutti collaborano. Certo. Poi nella quotidianità, no? Nella ripetitività, può darsi che qualcuno cominci a lasciare da parte, a risparmiarsi una corsetta oggi, due corsette domani, tre corsette dopodomani, e dopo così non potrai giocare. Adesso deve essere bravo Allegri a tenere alta questa attenzione, soprattutto questa determinazione, perché il talento c'è. Bisogna anche vedere quale sarà la tenuta, perché io non credo che Mandzukic possa fare 20 partite da qui alla fine della stagione con quell'intensità, anche in fase difensiva, Quadrado, forse nemmeno Cuadrado. È vero che c'è Piazza, è vero che c'è qualche alternativa, no, ma per questo che dico che è la prova del 9 la partita di stasera. Però anche certamente oggi per la prima volta forse la Juve ha davanti un avversario che fisicamente gli può dare fastidio in Italia. Fisicamente il Napoli è più forte, gioca meglio, però fisicamente l'Inter credo è l'unica in Italia che può reggere l'urto. Sì, no, anche perché la Juventus magari con Napoli stare attento a non concedergli spazio, se trova la difesa schierata fa fatica, no? L'abbiamo visto anche con lo stesso Palermo, no? Che è entrato Pavoletti, se trovi la squadra che si chiude fa fatica. L'Inter davanti alla forza, alla fisicità, alle qualità per affrontare anche una difesa schierata. Questo Perisic ultimo è determinante. È un giocatore abbastanza unico in Serie A. Questi Icardi, che prima era molto statico, recentemente l'abbiamo visto anche creare gli spazi e gli inserimenti da dietro dei compagni, sono novità, sono punti di forza che possono anche determinare in queste sfide. Grazie Alberto Zaccheroni. Grazie mister. Grazie a voi. Sempre un piacere. Grazie ad Alberto Zaccheroni, con cui abbiamo provato a disegnare sul campo Juventus-Inter a un paio d'ore dal fischio d'inizio. A proposito, aspetto ancora i vostri pronostici. Adesso ci fermiamo due minuti e torniamo subito dopo. 0-0 Palermo-Crotone. Siamo al 26esimo del primo tempo. È il Palermo che sta attaccando. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Massimo, il Chelsea ancora va sulla fascia. Cole, il tocco per Lampard al centro. Drogba! Ancora lui! Ancora lui! Straordinariamente, meravigliosamente, Didier Drogba! Arrivederci! Meraviglioso questo insieme a Spalletti e il video del fine settimana. Massimo Marianella, ciao! Buongiorno ragazzi! Che momenti! Ciao, ciao Max, che piacere! Che momenti, che momenti! Marianella e Drogba! Beh, casuale francamente, perché era accaduto lì davanti allo spogliatoio del Chelsea, quindi è stata una cosa un po' casuale, però divertente. No, ma la cosa carina è che l'ho chiesto lui, ho detto mi fai un Drogba, e quindi è stato divertente. Lo vedesti bene con Conte? Come attaccante o come assistente? In assoluto, no, un Drogba all'età del calcio, insomma. Guarda, io credo che Didier sia stato e probabilmente sto per dirti sia ancora, perché comunque la sua esperienza americana è straordinaria per tutti i gol che ha fatto e per come li ha fatti ancora alla Drogba, ma certamente è stato uno dei attaccati più forti gli ultimi 15 anni della storia del calcio, quindi se lo prendiamo al massimo della carriera sta bene con qualsiasi allenatore, anzi un giocatore così fa grande qualsiasi allenatore, francamente. No, io credo che si piacerebbero entrambi. Sì, come no, sì, ma come penso di sì, anche per un motivo, perché se parliamo di Conte, lui, parlo di Drogba, ha una cultura del lavoro, una dedizione, un attaccamento, anche proprio una cultura dell'allenamento che ben si sposa con quella che è la filosofia di Conte, quindi si sarebbero trovati molto bene. Però ti dicevo come assistente, perché l'anno prossimo il Chelsea deve prendere un nuovo assistente e uno dei nomi che si fa è quello di Drogba, che però vorrebbe continuare a giocare, quindi non lo so, però potrebbe anche vice allenatore giocatore. Penso che a questo livello del Chelsea potrebbe essere solo vice allenatore, però potrebbe aiutare lo staff. Usa la banalità. O magari allenatore, visto quello che viene scritto oggi in Italia, l'abbiamo detto prima. Stupiderie. Di cosa state parlando? Ma parliamo di questo contatto tra Suning e Conte. Suning per Conte, Conte per all'Inter. 400 milioni. Cioè, per 60 milioni in 4 anni. 60 milioni in 4 anni. Non ce la vedo. Noi l'abbiamo riportata perché oggi è la prima pagina di tutto il sport. Sì, va bene, con tutto il dovuto rispetto. Perdonami la banalità, io ho visto diversi giocatori inglesi buttarsi in mezzo al pubblico, un allenatore mai, però io non sono Massimo Marianella. Neanch'io. Tu sei Massimo Marianella. Esatto. Ma no, neanch'io l'ho mai visto così. Tra l'altro ci pensavo ieri mentre commentavo la partita, che in genere ci sono gli steward che in Inghilterra sono istruiti che non debbono permettere il contatto, anche quando è il giocatore che va a regalare la maglia o va dopo la partita o abbracciare i tifosi, non devono permettere quel contatto, anche se la squadra di casa, nella curva di casa, lo impediscono sempre. Lì secondo me devono, e poi glielo chiederò a Conte un giorno, ma devono averli istruiti in modo diverso, cioè che possano permettere questo contatto perché lui proprio lo vuole. Poi magari, tra l'altro, tra un po' noi ce lo avremo in diretta, perché avremo un trio di grandi ex giocatori, perché nello studio intorno alle 7:15 post Premier avremo Vaticanio conduttore, Vialli ospite, e in collegamento avremo anche Conte. Quindi lo diciamo senza problemi, quando alle 19 vediamo. Finisce tutti convocati weekend, tombola, girate, giriamo, accendete il televisore. Meglio di così, francamente, non potremmo si muore. Proporre. No, esatto, è stata fatta esatto. Quindi una deroga ad hoc a una regola che io condivido, peraltro, Peraltro, quella condivido. Di non permettere il contatto. Sì, condivido. Io condivido. Non l'ho mai capita, nel senso che nel momento in cui io sto, tra l'altro, nel mio stadio, comunque vado dal mio tifoso, ma che vuoi tu? Cioè, io sto andando, è uno slancio di entusiasmo. Insomma, io sono deformato professionalmente dalle attitudini italiane, quindi capito. Ma secondo te perché cerca questo contatto fisico? Cioè, perché ha bisogno di latinizzare così Stamford Bridge? Non credo che abbia bisogno di latinizzare Stamford Bridge. Io credo che lui sia felice in questo momento, cioè sia proprio contento. Quando c'erano gli europei, lui era già ovviamente d'accordo con il Chelsea, e in quel momento, tra l'altro, ce l'ho anche detto a noi in un'intervista, se gli avessero, si era talmente legato a quella squadra, alla famiglia che aveva creato in nazionale, all'ambiente che aveva creato in nazionale, che se in quel momento gli avessero detto guarda, facciamo finta di niente, puoi stracciare il tuo impegno, resti alla nazionale, probabilmente sarebbe rimasto alla nazionale. Oggi ecco perché quando mi dite l'offerta di miliardi, milioni di miliardi, non ci credo, perché sta talmente bene lì, è talmente felice, è talmente contento, e quel sorriso che io gli vedo sempre addosso è spontaneo, non è un vestito di scena, no, è proprio contento. E il bello, io insisto che la grande chiave del successo del Chelsea di Conte è il fatto che lui si sia fatto affascinare dal calcio inglese, cioè lui è arrivato in un mondo diverso, con una squadra che era buona ma non così forte, e io pensavo che avrebbe imposto la sua legge in maniera più decisa, ma anche nelle cose minime, non so, niente musica nello spogliatoio, anche oppure nella dieta, visto che oggi leviamo, ne abbiamo parlato. Leviamo queste cose dalla dieta, oppure non facciamo giorno di riposo, o ci alleniamo due volte. Invece ha mantenuto molte delle abitudini del club, delle abitudini del giocatore inglese, le ha mischiate a quello che lui ha portato. Questo lo ha aiutato a far sì che quello che oggi è uno dei primi 2-3 allenatori al mondo potesse avere un successo immediato in un mondo che conosceva di meno, per questa anche attitudine. La parola chiave è immediato, Massimo, perché a me la cosa che ha sorpreso di più in assoluto è la rapidità con la quale Conte ha contizzato il Chelsea. Poi sono d'accordo con te sul fatto che sia un top coach in questo momento, però la velocità con cui è riuscito a contizzare il Chelsea. Ieri io ho dato in telecronaca un dato assolutamente pazzesco, cioè con la partita di ieri lui ha vinto 61-6-1 delle ultime 73 partite a livello di club, cioè levando la nazionale con la Juventus e il Chelsea ha vinto 61 delle ultime 73. È un dato e non sempre con la squadra più forte, come aveva in Italia, per cui può venire facile dire, sai, anche Allegri sta facendo credo tutti i record di percentuale di vittorie sulla panchina della Juventus, però questo Chelsea non è la squadra più forte. No, certo. Mi viene anche in mente che, però correggimi se sbagliamo, sai, la percezione da cui può essere erronea, vedo che i tifosi del Chelsea per la prima volta non convivono con un allenatore, continuando nel ricordo di Mourinho, cosa che tanti successori di Mourinho hanno dovuto subire. Potere delle vittorie. È verissimo. Però sai, anche c'è chi ha vinto la Champions. Ancelotti aveva vinto, Di Matteo ha vinto. Cioè, sono parecchi gli allenatori che poi hanno vinto, ma nessuno è stato accettato così immediatamente, e soprattutto nessuno, avete ragione, ha cancellato in maniera così brutale quello che è il ricordo di Mourinho. È verissimo. Senti, ma quando cominciamo ad aver paura per il Leicester? Che è sotto 3-0 con lo United. Oggi Maluccio. Allora, io da amico e stimatore di Ranieri penso sempre che alla fine troverà lui la chiave per levare d'impaccio una squadra che gioca male, che è lontano ricordo, ma anche nei singoli, ne parlavo prima con Paolino Di Canio, cioè si muovono in maniera diversa Wood, Morgan, Simpson, un po' tutti. Io credo che c'è veramente bisogno che adesso Ranieri tiri fuori, peschi un jolly, perché ne ho viste tante, ma non in Inghilterra, in generale, di squadre che abbiamo detto per tanto tempo, ma figurati se questa retrocede, ma figurati se va alla fine della stagione e poi qualcuna di queste è davvero retrocessa. Non credo che accadrà, ma credo che ci sarà da soffrire parecchio. In questo momento la classifica dice che Leicester è sedicesimo, questa partita è praticamente persa col Manchester United a un punto come margine sulla diciottesima posizione dell'Hull City. È la parte più difficile, sì, quando perdi l'attitudine alla lotta per in certe località della classifica. E poi comunque hanno ancora la reale distrazione della Champions, perché devono giocare contro il Siviglia, con la quale se la possono giocare, perché non è il Bayern Monaco, sì, o non è il Barcellona, sì. E quindi comunque, sai, devi calarti in due dimensioni opposte, cioè da un certo punto di vista dici, oh, posso raggiungere il risultato più straordinario della storia del club e portarlo ai quarti finale, poi devi andare nel fango a Bournemouth a dire ci dobbiamo salvare, con una squadra che invece ha un altro tipo di attitudine, di mentalità, quindi è vero che sono un punto in più rispetto agli altri, ma hanno l'inerzia peggiore, non parlo proprio di sequenza di risultati, ma mentale, rispetto a altre squadre che invece sono in questo momento in crescita, persino il Sunderland, l'Hull City, cioè sono squadre che infatti adesso devono, io vengo da Londra, ero lì fino a stamattina e dicevano occhio che il Leicester, il Bournemouth e il Southampton adesso devono fare i conti. La storia insegna che quando una pretesa grande, presunta grande o grande reale, perché ha il titolo cucito addosso, si trova a lottare per la salvezza, il problema diventa molto difficile per l'attitudine proprio. Posso fare una domanda da amico Massimo Marianella? Vai. Massimo, dimmi la verità, quante volte hai visto la finale Federer-Nadal? L'ho vista una volta, ma me la sono goduta tutta. Perché non è una roba che te la fai fuori in mezz'ora, eh? No, esatto, me la sono veramente goduta tutta e ti dico la verità, a un certo punto non sapevo per chi di fare di più, nel senso che da amante del tennis estetico ovviamente il fatto che Federer tornasse a vincere era troppo importante anche per il tennis, per chi ama questo sport, per chi ama un certo tipo di gesti, di movimenti, proprio di storia di questo sport. Dall'altra, conoscendo bene anche l'altro fanciullo però dall'altra parte della rete, so quanto invece la cultura del lavoro, il fatto di aver sofferto per almeno un paio d'anni di non essere stato non solo vicino ma essere stato proprio lontanissimo dai suoi livelli, e in genere i giocatori alla Nadal, cioè che basano tutto sul lavoro, sulla forza, sulla continuità, sono quelli che quando non hanno più il loro livello crollano. Quelli come Federer scendono più dolcemente perché hanno dalla loro la classe che non li abbandonerà mai, quindi il fatto di essere ritornato a quel livello lì era difficile, come dire, tifare tanto per Federer, perché poi dall'altra parte perdeva un altro che aveva molto bisogno di quella finale. Tante le riflessioni, no? Se ci pensi, le due finaliste donne e i due finalisti maschi, bello ritrovarli lì, ma vuol dire che dietro c'è però poco, perché soprattutto vale soprattutto per le donne, vale soprattutto per le donne, per le donne non c'era nessuno, non c'è proprio più purtroppo per gli uomini nessuno. Un passaggio a vuoto può capitare a tutti. Allora, appuntamento 19:15, giusto, no? Con intorno alle 19:15 Conte, Vialli, Di Canio, ma soprattutto Massimo Marianella, che saluto e ringrazio. Grazie, Max. Io mi metterò a vederla insieme a voi praticamente, nel senso che io non ci sono, io mi sono dedicato a voi oggi. Grazie Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Vi abbraccio. Ciao. Fine. Mi dispiace per il bonus, mi dispiace. Però l'Italia ha giocato bene, era ben disposta in campo, però il Galles del secondo tempo ha dimostrato che le condizioni meteorologiche in questa partita ci hanno aiutato parecchio. Finisce allora 33-7 vittoria del Galles, un ottimo primo tempo di cui essere orgogliosi, ma poi onore al merito dei gallesi, la vittoria va a loro. Questo è il finale di Italia-Galles, 7-33, Giacomo Bagnasco, ciao. Ciao Jack. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E poi ha smesso di piovere. Possiamo anche parlare del tempo, però parti bene 7-0 e poi prendi un parziale di 33-0. Sì, sì, ma oltre al 7-0 c'è da dire che effettivamente il primo tempo è stato molto ben giocato dall'Italia, ma questo... tutto sommato forse è un aggravante o è un motivo di delusione in più, proprio perché l'obiettivo del nuovo commissario tecnico della nazionale è stato quello dichiarato di giocare 400 minuti, quindi 5 partite intere, tutte al massimo dell'intensità. E invece ci siamo fermati dopo i primi 40 minuti, ora speriamo di ripartire. Il Galles sarà stato... un po' così condizionato dal cattivo tempo, in campo azzurro si è puntato il dito anche alle 15 punizioni contro 5 fischiate dall'arbitro, ma la sostanza non cambia, insomma, e un parziale di 30-0 nel secondo tempo ci porta a tempi bui. Vedremo se vedremo già la settimana prossima. Allora, abbiamo il traffico, io saluto Carlo che ritrovate domani dopo il GR delle 14, vi do anche gli aggiornamenti. Palermo Crotone 1-0, siamo nell'ultimo minuto del primo tempo, siamo nell'ultimo minuto della partita invece all'Leicester, 3-0 per il Manchester United. Buone notizie invece da Mar del Plata, dove è ricominciata la sfida tra Lorenzi e Berloc, primo set per Paolo Lorenzi 6-4, 1-1 nel secondo set. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Ci impegniamo, parli, grida, smadonni, ci rompi i coglioni, fai. E a noi? Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Tutti convocati. Intanto Paolino Lorenzi ha fatto il break, 2-1 e servizio nel secondo set della quarta sfida contro l'Argentina, il primo dei due singolari di oggi. Italia che è avanti 2-1 e ora 6-4-2-1 e servizio per Paolo Lorenzi su Berloc. Con una vittoria ci qualifichiamo e mandiamo a casa l'Argentina, che è detentrice del trofeo. Finito il primo tempo anche a Palermo, 1-0 per il Palermo sul Crotone, gol di Nestorowski che sta decidendo la sfida, gol al 27esimo del primo tempo. Torniamo invece a concentrarci sul rugby e su Italia-Galles, Italia che è durata un'ora più o meno, primo tempo chiuso in vantaggio, poi soltanto calci piazzati fino al 60esimo, poi sono arrivate le tre mete, Giacomo Bagnasco. Credo però che sia presto per dire che uscì abbia fallito in quello che è il suo proposito, quello di far giocare la squadra per 80 minuti. No, indubbiamente c'è moltissimo tempo e questa è la prima partita del torneo del Sei Nazioni per il nuovo commissario tecnico. Le tre mete, ricordavi tu, sono venute nell'ultimo quarto di gara e per pochissimo il Galles non è riuscito a segnare la quarta, che con il nuovo sistema di calcolo dei punti in classifica l'avrebbe proiettato da solo in testa alla graduatoria, perché con quattro mete segnate si guadagna anche un punto di bonus, mentre ieri né la Scozia battendo l'Irlanda né l'Inghilterra battendo la Francia è riuscita a fare tanto. Le tre mete, comunque due delle tre mete sono arrivate con l'Italia in inferiorità numerica, però è un'inferiorità numerica anche questa figlia della logica, perché gli azzurri soffrivano tantissimo in mischia, hanno preso diverse punizioni contro e a un certo punto c'è stato un cartellino giallo nei confronti del pilone Lovotti, siamo rimasti in 14 e come direbbero qui a Roma, chiaro segnale di sofferenza. Oggi poca gente allo Stadio Olimpico. Sì, 41.000, pochi rispetto al solito, purtroppo anche a fronte di molti applausi anche qualche fischio all'indirizzo del presidente Mattarella. Francamente doveva essere un momento di festa, per la prima volta un presidente della Repubblica viene a vedere una partita del Sei Nazioni e pensa come sarebbe assolutamente incredibile che venisse fischiato il presidente francese allo Stade de France il presidente dell'Irlanda alla Viva Stadium, o un componente della famiglia reale a Edimburgo, a Londra o a Cardiff. In quel momento chiunque è il presidente o chiunque è il politico da rappresentante di governo rappresenta una nazione, è un padrone di casa che ci rappresenta tutti, e fischiare significa aver perso un altro confronto, ecco, oggi oltre a quello sul campo. Sì, ma anche il rugby non è immune, come lo sport del resto, insomma, dalle tensioni che attraversano la società. Io credo la riflessione sia questa, anche se sì, poi noi tutti saremmo contenti se gli stadi fossero blindati a ciò che accade fuori. Ma sì, sì, ma soprattutto, ecco, dico, le tensioni ci sono, e sono in altri paesi sicuramente non inferiori alle nostre, però in un momento di sport, nel momento in cui la personalità più alta di uno Stato saluta gli atleti della squadra ospite, ecco, sentire dei fischi significa non avere cultura dello sport in generale. E detto di un pomeriggio di rugby, insomma, segna che anche qui c'è un deterioramento. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Grazie a Giacomo Bagnasco. Intanto, ve l'ho detto, finito il primo tempo di Palermo-Crotone 1-0, finita Leicester-Manchester United con la vittoria 3-0 del Manchester United, che sale a quota 45 punti, resta comunque staccatissimo dal Chelsea di Antonio Conte. 3-1 avanti, 2-1 ancora avanti il nostro Paolino Rolenzi nel secondo set contro l'argentino Berloc. Io mi prendo gli ultimi 3 minuti con Max Nerozzi direttamente da Torino. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a voi. Inviato della stampa. Allora, abbiamo detto che nell'Inter c'è ancora il ballottaggio João Mario Brozovic, ma potrebbe essere João Mario alla fine quello scelto, così come dovrebbe essere Medel scelto in difesa al posto di Murillo per giocare al fianco di Miranda. Che succede invece nella Juve? Ma direi che è quella annunciata, Barzagli è fuori e quindi giocherà Lichtsteiner a destra. Quindi Barzagli fuori perché non sta bene, del resto era stato convocato in extremis. Sì, aveva la febbre, hanno provato, però giocherà lo svizzero. Nuovo modulo per convinzione o perché in questo momento bisogna proseguire visto che i risultati ci sono? Per convinzione, insomma, Allegri ha trovato, diciamo, l'unico movimento 5 stelle che funziona. E quindi Pjanic, Cuadrado, Mandzukic, Dybala, insomma, stanno giocando bene, dai. E Chiellini l'altro giorno diceva che si può giocare così anche contro Real Madrid e Barcellona. Non so se è vero, però è chiaro che è un'idea che stuzzica molto. E Allegri l'ha tirato fuori all'improvviso dopo che l'aveva provato a lungo in autunno. L'impressione è che, non avendo più il fantastico centrocampo di Berlino 2015, il centrocampo sia stato quasi azzerato, nel senso che Chedir e Pjanic, quando la Juve è in fase difensiva, giocano proprio schiacciati davanti alla difesa, e quando la Juve è in possesso palla sono due attaccanti aggiunti sostanzialmente. È una Juve che cerca di stare in 25 metri, un po' di concezione cestistica, dai. Allegri è un grande appassionato di basket, secondo me sulle transizioni ci ha lavorato molto. Sì, sei d'accordo che quello di stasera è un po' un crash test, cioè se si può giocare così contro Real e Barcellona, in parte forse Allegri e i giocatori della Juve lo scoprono stasera. Sono d'accordo con te, perché fin qui abbiamo detto che con la Lazio è andata bene perché la Lazio era in un momento così, idem si scrisse col Milan, il Sassuolo non aveva le qualità per reggere la Juve, beh, insomma, se la Juve va bene stasera davanti a un Inter che comunque sono 7 partite che vince, penso che sì, sia un bel collaudo. Grazie Max. A voi, ciao! Grazie Massimiliano Nerozzi. Intanto su Torino piove, ma del resto piove su tutto il centro e nord Italia, ma per tutto il pomeriggio sono stati tirati i teloni dello Juventus Stadium, sì, e dunque sì, non ci dovrebbero essere problemi. Sì, io posso dare un'esclusiva, anteprima, la formazione contro Juventus. Ma che hai telefonato a Pioli? I miei giocatori saranno Handanovic, Chanton, beh, non è, Chanton non gioca. Miranda, ma cosa dobbiamo ascoltare? Murillo, Frank, Nagatomo, Frank, non gioca Nagatomo, ma soprattutto non stai tu in panchina. Jovetic, Gnocchi, Ranocchia, li hanno venduti. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Valeria Bernardi in regia, il nostro Andrew Mercur. Io. Con le sue voci. Torniamo domenica alle 17. Ciao. Yeah.